Europa 24. Cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli. Dunque, bentornati al nostro appuntamento con l'Europa. Europa che discute, litiga in alcuni momenti con gli Stati Uniti. Dunque, la vicenda è nota, ne abbiamo parlato tutta la settimana. Il caso Prism, il 3 luglio, il dibattito, la linea che emerge da parte del Parlamento europeo è intentata a una forma di sobrietà, quindi richiesta di chiarimenti, ma senza bloccare però la trattativa delicata, importante per entrambi i blocchi, per gli Stati Uniti e per l'Europa, che riguarda la zona commerciale unica, una trattativa che deve partire lunedì. Sentiamo il servizio di Laura Bettini. Lunedì prossimo a Washington ci sarà un incontro Stati Uniti-Unione Europea sulla vicenda del Datagate, ha detto ieri il ministro degli esteri Emma Bonino. Nello stesso giorno inizierà il negoziato Stati Uniti-Unione Europea sull'accordo di libero scambio. Il messaggio è chiarissimo: l'intesa non sarà messa a repentaglio dallo scandalo, sono binari diversi. E in fondo la pensano così anche gli infuriati parlamentari europei, che infatti ieri, pur promettendo un'inchiesta approfondita sullo spionaggio americano, hanno proposto di colpire gli Stati Uniti con moneta uguale e contraria, ovvero con la sospensione del consueto trasferimento dei dati bancari e dei passeggeri aerei. Secondo i parlamentari, invece, sarebbe deplorevole se le recenti accuse si ripercuotessero negativamente sugli sforzi tesi a concludere quel particolare partenariato transatlantico. Comunque, dicono i deputati, bisognerebbe anche stabilire una procedura per fornire assistenza a chi decide di rivelare gravi violazioni dei diritti fondamentali. Insomma, sarebbe opportuno sapere come muoversi se mai un altro Snowden comparirà all'orizzonte. Lui intanto è ancora bloccato nel suo personale carcere aeroportuale di Mosca, ma potrebbe cavarsela nel più classico dei modi, il matrimonio. Non con una qualunque però. A chiederlo in sposo è stata Anna Chapman, ex spia russa, bellissima, scoperta negli Stati Uniti e rimpatriata 3 anni fa. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Una soluzione davvero imprevedibile, almeno fino a qualche giorno fa, ma vediamo altre notizie europee. Questa non è molto buona. L'Italia infatti scala la classifica dei tassatori in Europa, con la pressione fiscale passata dal 42,6% al 44% nel 2012. Scavalca infatti la Finlandia e si piazza al 4º posto per il peso del fisco tra i 17 paesi dell'euro. La settimana che si va a concludere è quella in cui la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell'Unione, ma anche quello in cui la Lituania ha preso il posto dell'Irlanda alla presidenza dell'UE. Infine il Parlamento ha votato l'adozione dell'euro in Lettonia, ha dato il suo accordo al compromesso raggiunto sul quadro finanziario pluriennale. Un altro elemento da ricordare di questa settimana è l'elezione. Era stato un posto piuttosto ambito, quello del mediatore europeo. In realtà è una mediatrice europea, Emily O'Reilly, irlandese, sostenuta da 359 deputati in una votazione segreta. Il voto è avvenuto mercoledì. Gli Stati membri si sono confrontati anche sull'accordo provvisorio sul budget 2014-2020. I tre gruppi maggioritari hanno manifestato un tiepido consenso, mentre Verdi e Sinistra Unita ha denunciato il fallimento dell'accordo, soprattutto rispetto ai temi della disoccupazione giovanile e la protezione dell'ambiente. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare Esploriamo l'Europa, un opuscolo, è un gioco educativo online indicato per i bambini dai 9 ai 12 anni. Accompagnati da suggestive immagini e divertenti illustrazioni, i piccoli lettori hanno la possibilità di scoprire la storia dell'Europa in modo semplice e chiaro, toccando argomenti riguardanti l'ambiente, la storia, le lingue, le tradizioni e la geografia delle singole nazioni, oltre a capire cos'è e come funziona l'Unione Europea. Tramite giochi e quiz si possono poi verificare le proprie conoscenze e competere con i compagni e gli amici, sfidandosi a suon di domande. Il kit didattico Esploriamo l'Europa, promosso dalla Commissione Europea, è scaricabile dal sito europa.eu/europago/esplore. Grazie a Federico Taddia. Conoscere l'Europa, le istituzioni, i suoi meccanismi, conoscerli meglio anche, non solo per i ragazzi, per gli adulti, per quelli che votano. Lo ricordo, il 2014 è l'anno del voto del Parlamento Europeo, sarà un voto importante perché proprio per l'effetto della grande crisi che stiamo vivendo, forse finalmente cominciamo a capire che è opportuno sapere chi mandiamo al Parlamento di Strasburgo e Bruxelles. Bene, con questo abbiamo concluso. Naturalmente radio24.it è il sito di Euronet Plus con cui appunto collaboriamo per realizzare questo progetto. Da parte mia e da parte di Fabio Cantadore in regia, in questo istante un saluto, un buon fine settimana, ci risentiamo a partire da lunedì. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.